Ti ringrazio per il contributo e la riflessione. È giusto quello che tu dici, nel senso la volontà di comprendere e discriminare tra i numeri, ma purtroppo il fatto stesso che ad esempio si inseriscano in decessi da Covid-19, quindi da infezione da SARS-CoV-2, persone che hanno avuto un incidente stradale, che quindi addirittura potrebbero essere state, come posso anche immaginare, asintomatiche e per motivi legati a disposizioni dell'autorità giudiziaria è stata effettuata un'autopsia e nel corso dell'esame autoptico con un tampone o due tamponi o tre tamponi sia risultata una positività, nel momento in cui il decesso viene ascritto a Covid-19, quando in realtà la persona è finita giù da un dirupo perdendo il controllo per esempio dell'autovettura, quando all'estero, paesi come Francia e Germania, non inseriscono nelle statistiche dei decessi da Covid-19 persone che in incidenti stradali avevano una infezione o comunque anche asintomatica o pacinsintomatica rilevata successivamente all'incidente, è evidente che tutta la percezione del fenomeno è alterata. La reale domanda che uno deve porsi è questa: qual è, in termini di rischio epidemiologico, la reale portata di minaccia dell'infezione da SARS-CoV-2, da questa sindrome similinfluenzale che può portare febbre, raffreddore, problemi alle vie respiratorie? Qual è la vera minaccia? Su una scala, qual è rispetto alla popolazione italiana? E io ritorno sempre alla definizione, o meglio, alla presa di posizione del Ministero della Salute. Mesi fa, a primavera 2020, il Ministero della Salute scriveva che questa patologia è a bassissima mortalità. La mortalità è legata all'incidenza in rapporto all'intera popolazione. Una malattia a bassissima mortalità, addirittura secondo studi epidemiologici preliminari che riguardano la popolazione pediatrica definita decorso benigno, non può preoccupare così tanto al punto da paralizzare un intero paese, paralizzare la vita sociale, paralizzare la vita occupazionale, paralizzare la vita economica, gettare nella disperazione e nel lastrico migliaia e migliaia di imprenditori italiani che rischiano di veder chiuse le loro aziende, andare in fumo i loro investimenti, portare alla disoccupazione milioni e milioni di persone e milioni di persone in cassa integrazione. Non c'è misura di buonsenso, non c'è rispetto del principio di proporzionalità, siamo in una situazione surreale dove sicuramente l'incidenza di aumento di suicidi e le condizioni di depauperamento, impoverimento sociale, disperazione per condizioni economiche veramente difficili. E tutto questo è connesso anche alla definizione di stato di salute data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che con saggezza aveva richiamato negli anni 40 che la salute non è solo assenza di malattia e infermità, la salute è un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale. Non si può non essere d'accordo con questa definizione. Non si può paralizzare un paese per una malattia a bassissima mortalità. Due pesi e due misure. Altre malattie avevano impatti analoghi al Covid-19, se non superiore negli anni passati, nei decenni passati, e mai restrizioni così forti e compressione così forti dei diritti costituzionali sono mai state prese dalle autorità di governo. Per non parlare di tutto l'aspetto giuridico legato alla violazione del principio di legalità, violazione della riserva di legge. Siamo in un momento epocale della storia, non solo italiana, mondiale, con grandissimi cambiamenti e scontri a livello istituzionale, ma non solo, anche energeticamente. Le persone percepiscono che energeticamente sta accadendo qualcosa, a livello della psiche, a livello della costruzione proprio della storia, della civiltà. Siamo in una situazione di cambiamento epocale e quindi, giustamente, chi rivendica dei valori, il rispetto di alcuni valori, come il rispetto della dignità dell'essere umano, il rispetto di certi valori di libertà e di diritti conquistati con le unghie, con i denti, con il sangue, è evidente che non ci sta, è evidente che se voi siete qui non ci state a una narrazione mistificante della verità dei fatti, con la complicità di mass media che o per ignoranza o per asservimento non comprendono il male che stanno facendo. C'è un testo unico dei doveri del giornalista che io vedo continuamente tradito, continuamente calpestato. Io soffro con tutti voi, soffro perché ho figli, ne ho due, uno tra l'altro è sospeso dalla frequentazione scolastica dalla primavera, anzi addirittura da prima che cominciasse la primavera del 2019, mio figlio aveva senza problemi, mai vaccinato, frequentato la scuola dell'infanzia per 6 mesi, ben accolto, ben accetto da tutti i compagni di classe e dalle maestre, mai discriminato, per un provvedimento del dirigente scolastico a causa di un comma di un articolo della legge 119, mio figlio ha perso la socialità, ha perso l'interazione sociale, ha perso le sue maestre e mesi dopo milioni e milioni di bambini e adolescenti italiani hanno subito lo stesso trattamento di mio figlio e avete visto le conseguenze in casa, le avete viste tutti, con l'aggravante della didattica a distanza. È difficile lottare, è difficile restare centrati, è difficile restare in equilibrio, è difficile anche avere fiducia nel futuro. Potremmo avere situazioni addirittura peggiori di quelle che abbiamo vissuto. Questo non vuol dire rinunciare a sognare un domani migliore e a sognare una primavera di rinascita. Non perdete questo senso di rinascita futura, che potrebbe anche avvenire tra anni, non necessariamente fra mesi. Non perdete voi stessi e non perdete i valori che vi fanno sentire quello che siete, perché i nostri figli hanno bisogno di noi, ma non solo i nostri figli. Costruiamo un valore dentro noi stessi, c'è una fiamma dentro noi stessi, questa fiamma va protetta, alimentata, custodita. Qualcuno questa fiamma vuole spegnerla. Spero che sia abbastanza chiaro che non esistono salvatori della patria e ognuno di noi può portare un piccolo cambiamento nelle nostre vite quotidiane, nei nostri pensieri anche. E tanti piccoli pensieri, tante piccole azioni, una disposizione migliore verso il mondo, verso noi stessi, può portare veramente a un cambiamento, ma questi cambiamenti non possono avvenire dall'oggi al domani ed è necessario restare forti ma senza diventare rabbiosi, senza farsi prendere dalla rabbia, e chi ha rabbia traduca, interpreti e modelli e convogli questa rabbia in azioni costruttive, in azioni di ascolto, di attenzione, riflessione, senza dimenticare mai che di fronte a noi possiamo avere delle persone che sbagliano anche in buona fede, non solo in malafede. Ci sono tantissime persone purtroppo anche in situazioni di potere, in situazioni di vertice, in posizioni apicali del potere che fanno il male in modo consapevole, ma molti sono inconsapevoli e agiscono in buona fede ed è a loro che va tesa la mano. Ciao a tutti da Luca Scantamburlo.